questo lì devo essere fresche. I have a hot constitution. Ho una costituzione calda. The east for me was a constant hell realm. L'est per me era un costante regno dell'inferno. The only thing that helped was a fan. L'unica cosa che era di un po' di aiuto era un ventilatore. Which I used to have right in front of me here. Che io avevo proprio lì davanti a me. Unfortunately, I think I might have said this. Unfortunately, it sounded like an aeroplane. Esattamente, ho solo di un aeroplano. Which in moments of madness I thought was taking me to higher planes of existence. In momenti di follia avevo l'impressione che mi portasse a dei livelli più alti di esistenza. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Homage to the Buddha, the blessed, noble and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al beato, al nobile e al pienamente illuminato. So this evening I thought we would again for some of you just revise to go over the concepts of karma. Quindi questa sera pensavo di nuovo di ripassare per alcuni di voi che già li conoscono i concetti del karma. And, concetto di karma. Yeah. And of course for one or two of you it'll be some new teaching. E per uno o due di voi sarà un nuovo insegnamento. The first place that I always like to start is the way the Buddha actually saw the universe working. Quindi il punto di partenza che, da cui mi piace iniziare è dal modo in cui effettivamente il Buddha ha visto funzionare, come funzionava l'universo. In the Pali it's called Iddhapachyata. In Pali si chiama Iddhapachyata. This, that conditioning. Il condizionamento di questo e quello. It's very, at first it seems extraordinarily simple. Inizialmente sembra straordinariamente semplice. But it explains the why things happen in the universe. Ma questo spiega perché le cose accadono nell'universo. Or better, how things. O meglio, come le cose accadono. Remember that the Buddha's question is how, much more than any philosophical or metaphysical why. Ricordate che la domanda del Buddha era come, piuttosto che un perché più filosofico o metafisico. Yeah. He's not concerned with the question of the origins of the universe. A lui non interessano le domande sulle questioni riguardanti l'origine dell'universo. I think as far as he was concerned, the origin is right here and now. Io credo che per quanto lo riguardasse, l'origine era nel qui e ora. Because he says somewhere that he does not see a beginning to karma. Perché lui da qualche parte dice che lui non vede un inizio al karma. It's impossible to rationally think that there was a beginning or an end to the constant flow of cause and effect. È impossibile pensare che ci fosse un inizio o una fine al costante flusso degli eventi. And as you know, in the great cosmology of Buddhism, world systems arise and pass away. Come sapete, nella cosmologia buddista, i sistemi dei vari mondi sorgono e svaniscono. Like huge cosmic in-breaths and out-breaths. Come enormi inspirazioni e espirazioni cosmiche. So this Iddhapachyata, this, that conditioning, is the first clause is, because that happened, this happens now. Quindi in questo... Iddhapachyata, this, that conditioning. Condizionamento di questo e quello. Allora, il primo sintagma, diciamo, il primo presupposto yeah, è supposed. Che poiché è successo questo, quello accadrà. So this is how we would normally understand cause and effect. Quindi questo è come noi normalmente capiamo la legge di causa effetto. So because you didn't pay your bills, you end up being thrown out of your house. Quindi poiché non avete pagato le bollette, finirete per essere sbattuto fuori dalla vostra casa. It's very simple. Because, yeah, one can see a certain historical line to what happens. Quindi uno riesce a vedere una sorta di linea storica riguardo a cosa succede. And of course the opposite also, that if you don't do this, this doesn't happen. E quindi vale anche l'opposto, cioè se non fai questo, quello non accadrà. Yeah. If you don't buy the lottery ticket, you won't win the lottery. Se non vi comprate un biglietto della lotteria, non vincerete mai alla lotteria. I'm not suggesting you buy lottery tickets, of course. Non vi sto suggerendo di comprare il biglietto della lotteria. These are only innocent examples. Queste sono cose innocenti, sono solo degli esempi. And the second proposition is, because this happens now, this happens. E quindi la seconda proposizione è, poiché questo accade ora, questo succede. And because this does not happen now, this does not happen. E quindi poiché questo non succede, quest'altro non succede. So for instance, because you all came here now, this is creating a special moment. Quindi in altre parole, poiché siete tutti venuti qui adesso, questo sta creando un momento speciale. If you didn't come, there'd be no talk. Se voi non foste venuti, non ci sarebbe un discorso. And I'd be free to have a cup of tea. E io sarei libero di far prendermi una tazza di tè. So, now, if you take the first position, that because of the way people ordinarily think of causality, that happened in the past, so this happens now. Quindi se prendiamo questa prima proposizione, cioè come normalmente la gente pensa alla legge di causa-effetto, cioè poiché quello è successo nel passato, questo sta succedendo adesso. Then you would fall into what the Buddha would think of as an error. Allora cadresti in quello che il Buddha giudicherebbe un errore. The understanding of fatalism. E quindi è la teoria del fatalismo. That things happen, you have no choice because it's all already pre-programmed in the past. Quindi le cose capitano, non abbiamo nessuna scelta perché sono già state programmate nel passato. This has crept into well, there was a teacher in the Buddha's time who thought exactly this. C'era un insegnante ai tempi del Buddha che pensava esattamente così. He said if you went down one side of the Ganges doing all sorts of good works and compassionate actions and came up the other side murdering and thieving, it wouldn't make the slightest bit of difference. Quindi lui diceva che se voi andavate giù lungo una riva del fiume Gange facendo solo azioni benevole, facendo il bene, e foste tornati dall'altra riva del Gange facendo solo azioni malvagie, questo non avrebbe fatto nessuna differenza. So there was that idea of fatalism even in the Buddha's time. Quindi c'era questa idea del fatalismo anche ai tempi del Buddha. It even happens in Christianity with Calvinism. Questo capita anche nel cristianesimo con il calvinismo. So Calvin argued, God knew everything, so he knew whether you'd end up in heaven or not. E quindi Calvino diceva se Dio sa tutto, quindi lui sa se tu finirai all'inferno oppure no. So there's nothing you could do, it's already written in God's mind. Quindi non c'è nulla che tu puoi fare, c'è tutto scritto nella mente di Dio. And eventually it didn't really matter whether you did bad or good because you were already destined. E quindi alla fine non importava se tu facessi del bene o del male perché eri già predestinato. It's called the doctrine of predestination. È proprio chiamata la dottrina della predestinazione. It didn't, because human beings can't really take on that sort of fatalism. E poiché gli esseri umani non possono assumere questo tipo di fatalismo. There came what is known as the Protestant ethic. Quindi è venuta la cosiddetta etica protestante. Whereby, if you did well in this life, surely that must mean you were going to go to heaven. E quindi questo significava che se voi vi foste comportati bene in questa vita, questo sicuramente avrebbe comportato l'ingresso nel paradiso. Yeah. Hence capitalism. E questa è la fine del capitalismo. Oh, one cause. Causes capitalism, did you say? Yeah, one of the reasons for it. È uno dei motivi che ha causato il capitalismo. If you only take the first proposition of historical cause and effect, then really you end up with a universe which is, in a sense, going to repeat itself. Quindi se si prende solo questo assunto, insomma, di un punto di vista storico, che è quello che è successo in passato, poi si ripercuote sul presente, allora finirete con l'idea di un universo che semplicemente si ripete. Nothing changes. E che nulla cambia. Now, if you take the other proposition, prendete l'altro assunto, that things happen now because things happen now, in other words, contingency, quindi le cose accadono adesso perché accadono adesso, quindi in altre parole questa contingenza. So, for instance, we all came from very different places, and we all came because of our own decision making, but we all ended up in this place to create this course. Quindi in altre parole, noi tutti siamo venuti da posti diversi, con le nostre personali intenzioni, e ci siamo ritrovati tutti insieme a creare questo momento in questo luogo. Coming together here at that point creates this course. Quindi il trovarci tutti qui in questo momento crea quella causa. Now, if there is no connection between the present moment and the past, then one can presume that the universe would be chaotic. Quindi se non c'è nessun collegamento tra il presente e il passato, uno può supporre che allora l'universo sarebbe caotico. So there you have the two opposites. You have one side which says everything is predestined, and the other side which says that it's all chaotic. Quindi si hanno i due estremi, da un lato che tutto è predestinato e dall'altro che tutto è caotico. And sometimes it may seem chaotic, for instance, when you have sudden tsunamis, earthquakes, there seems to be no reason for it. E a volte può sembrare caotico, quando ci sono gli tsunami, per esempio, o i terremoti, e sembra che non ce ne sia una ragione. So, when you put these two concepts together, which is, you know, difficult, when you put these two concepts together, then you have an understanding from the Buddha's point of view of how the world remains in a state of order and yet created. Quindi se si riesce a mettere insieme questi due concetti, allora si capisce dal punto di vista buddista di come l'universo è allo stesso tempo ordinato, ma creativo. È creativo. So, for us as meditators, this is important. Per noi come meditatori questo è importante. Because, you see, going back to our practice of noting intention, perché adesso tornando alla nostra pratica del notare l'intenzione. Now, if awareness is not there, then most of our lives runs on the first proposition. Se la consapevolezza non c'è, allora è come se tutta la nostra vita corresse a seconda della prima proposizione che abbiamo fatto. We're running because of old conditioning, like an automaton. Quindi noi stiamo vivendo, stiamo andando avanti come un automa, secondo i vecchi condizionamenti. When we bring awareness to a situation, suddenly there arises other possibilities. Quando portiamo la consapevolezza in una situazione, improvvisamente sorgono altre possibilità. So then we have a choice. Should I do this or should I do that? E quindi abbiamo una scelta. Devo fare così o devo fare cos'ha? And so we get that feeling of being more in control of our lives and more creative. E quindi abbiamo quell'impressione di essere più in controllo della nostra vita, più creativi. And indeed, at that point when the self completely disappears, quando il sé, a quel punto in cui il sé completamente sparisce, even in small acts through our lives, anche nelle piccole azioni della nostra vita, it means that the old conditioning is not having a direct effect on the present moment. Questo significa che il vecchio condizionamento non sta avendo un effetto diretto sul presente. And one gets the feeling of spontaneity. E uno ha l'impressione di spontaneità. So, for instance, one practices generosity. Per esempio, uno pratica la generosità. But there's always some thought about it. C'è sempre qualche pensiero riguardo. But because we practice in the right way, suddenly there arises an occasion for generosity, and we do it without thinking. Però poi noi pratichiamo bene e sorge l'occasione per praticare la generosità e noi la facciamo senza pensare, spontaneamente. Mm. And it's good and wise. Ed è buono e saggio. Yeah. So the feeling of having a greater control over our lives and the feeling of spontaneity are two things that grow with us the more we become liberated from these old conditionings. E quindi queste due cose, cioè questo senso di spontaneità e di avere un maggior controllo sulla nostra vita, sono cose che crescono con noi man mano che they grow with us as we grow in the practice. Man mano che ci liberiamo dai nostri condizionamenti. Sorry, I was thinking ahead then, so I lost it. I was wondering what we were going to say next. So, keeping that fundamental law, you can call that your basic fundamental law of cause and effect. Quindi possiamo chiamarla la nostra legge fondamentale di causa effetto. So now the next step is to realize that the Buddha did not say that everything happens because of our personal karma. Allora, la seconda cosa è che possiamo dire che il Buddha non ha detto che le cose capitano a seconda del nostro karma personale. Mm. He said there were five causes for why things happen. Lui ha parlato di cinque cause secondo per le quali le cose capitano. Mm. And they won't come as a surprise. Queste non verranno come una sorpresa. The first is uttu niyama. Il primo è uttu niyama. So that's the law of heat. È la legge del calore. Yeah, and that's just the way the ancients thought of the physical world. Ed è come gli antichi pensavano al mondo fisico. Mm. So everything began with heat, and everything else appears out of heat. Quindi tutto è cominciato dal calore, tutto viene fuori, nasce dal calore. Mm. So it would be equal to our physics. E quindi questo corrisponderebbe alla nostra fisica. So if you happen to be walking around Monte Santo and an earthquake comes and you get swallowed up into the earth. Quindi se per caso vi capita di camminare in giro per Monte Santo e viene un terremoto e che vi inghiotte nella terra. It's not because in the past life you stamped on 100,000 ants. Non è perché nella vostra vita passata avete calpestato 100,000 formiche. It's not. It's because it was time for the mountain to create an earthquake. È perché era il momento che la montagna creasse questo terremoto. Mm. It was just, should we say, this creativity of the universe that you unfortunately happened to be there at the same time. Questa creatività dell'università e per vostra sfortuna vi è capitato di essere lì allo stesso momento. Our actual karma, and I shall be coming back to this, in that situation, is not the earthquake, but how we react to it. Quindi il nostro vero karma, ci tornerà più tardi, in quella situazione non è il terremoto, ma come noi reagiamo a quel terremoto. Mm. The second law, niyama, is bija niyama. Allora, la seconda legge, niyama, è bija niyama. And bija just means seed. Bija significa seme. And seed here is referring to genetics, what we would call genetics. E qui il seme si riferisce a quello che noi chiameremo la genetica. So here we have, you know, the problem of, for instance, somebody born with a genetic disease. E qui abbiamo il caso, per esempio, di qualcuno che nasce con una malattia genetica. Mm. It would be very wrong thinking to say that this person deserves to have that. Genetic disease, because again, in the past life, he has done something. He or she has done something terrible. Sarebbe molto sbagliato pensare che quella persona merita quella malattia perché nella vita passata ha agito in modo tale da causare quella malattia. Mm. Because, as we know, just from our own science, our genetic makeup is a compound of hundreds of births and deaths before us, which have nothing to do with us. Quindi, perché come sappiamo, il nostro composto genetico o la nostra genetica è composta da migliaia, centinaia, migliaia di vite e di morti che non hanno niente a che fare con noi. Yeah, we've just ended up with this body. Noi siamo capitati in questo corpo. And again, it is our relationship to the body which is our real karma. E di nuovo è la nostra relazione col corpo che è il nostro vero karma. When I was staying at the monastery of Amaravati in England, quando stavo al monastero di Amaravati in Inghilterra, there was a man who came to do a retreat there. È venuto un uomo a fare un ritiro. And he had a genetic disease whereby his whole body was becoming just stiffened and bent into itself. Aveva una malattia genetica in base alla quale il suo corpo si stava ripiegando su se stesso, stava diventando rigido. He seemed to be perfectly okay with his situation. Sembrava che lui fosse a suo agio con la sua situazione. He'd come to accept it, worked with it, and was living quite a lovely spiritual life. Quindi lui era arrivato ad accettarlo, ci conviveva e stava conducendo una buona vita spirituale. When this happened, when this began to develop in him as a young boy, his parents asked the doctors if such a thing could happen again because they wanted another child. Quindi quando questo gli è successo da ragazzo, i suoi genitori hanno chiesto ai medici se poteva ripetersi perché loro volevano avere un altro figlio. They said it would be, you know, millions and millions of ones a chance. Quindi sarebbe stato un caso rarissimo, uno su un milione. So they had another child, a little girl. E quindi ebbero una bambina. But unfortunately she also developed this very same genetic disease. Ma lei, sfortunatamente, anche lei ha sviluppato questa malattia genetica. But her relationship to the body she was in was very different. Ma la sua relazione con il corpo nel quale si trovava era molto diversa. It was said, I never met her, it was said that she was very embittered. Dicono, lui non ha mai conosciuto, che era molto amareggiata. So, again, we mustn't confuse our genetic makeup with our personal karma. Quindi di nuovo non dobbiamo confondere la nostra costituzione genetica con il nostro karma. The third niyama is citta. Il terzo niyama è citta. And that's the mind. E quella è la mente. And the mind here is our psychology. E la mente qui è la nostra psicologia. So we said yesterday that the first part of the wheel of dependence origination, the six senses, the contact, the feeling that arose. Quindi abbiamo detto ieri che la prima parte della ruota dell'originazione dipendente, cioè the six senses, i sei sensi, il contatto e le sensazioni che sorgono, Are just natural to our psychology. Sono naturali per nella nostra psicologia. And all sentient beings must have that ability to contact the world and have feelings, have sensations. E tutti gli esseri senzienti devono avere quell'abilità di contattare il mondo e avere quelle sensazioni. Then there comes that whole psychology around our misunderstanding, the craving, etc., etc. Poi c'è tutta la psicologia intorno alla nostra non comprensione, all'attaccamento, eccetera. But in that understanding of the citta, we can take what we understand today as the whole of our psychological understanding. Ma noi in questo termine citta possiamo includere tutto ciò che noi comprendiamo con il termine psicologia, con quello che noi intendiamo come psicologia. And there is some writers, I'm thinking especially of a very good Thai monk who writes good books. E alcuni scrittori, in particolare si riferisce a uno scrittore thailandese che scrive dei libri molto buoni. If you want, his name is Payutto, P-A-Y-U-T-T-O. Payutto è il suo nome, P-A-Y-U-T-T-O. P-A. P-A, sì, Pa in italiano. P-A-Y-U-T-T-O. If you put Paiuto in Google, then you'll get his website. Se andate nel motore di ricerca Google e mettete Paiuto, viene fuori il suo sito. And he connects citta with the society. Allora lui collega questo citta con la società. So the society we live in is really an extension of human minds. Quindi la società in cui viviamo è un'estensione delle menti umane. Remember that the first verse of the Dhammapada begins that everything begins with the mind and everything is made of mind. Ricordate, il primo verso del Dhammapada dice che tutto comincia con la mente e tutto è costituito dalla mente. Yeah. So for instance, it needs a human being to think of a road before you can actually build it. Quindi ci va un essere umano che pensi ad una strada prima di effettivamente costruirla quella strada. In other words, we are constantly projecting our thoughts onto the world. In altre parole, noi stiamo costantemente proiettando i nostri pensieri sul mondo. Our images, our plans. Le nostre immagini, i nostri progetti. Even when we talk about a natural forest, it's very rare to come across one which hasn't been meddled with by human beings. Anche se quando parliamo di una foresta naturale è difficile trovarne una che non sia stata in qualche modo pasticciata da un essere umano. So there is a connection there between all the psychology that the Buddha is teaching and the society we live in. Quindi c'è un collegamento tra tutta la psicologia, così come insegna il Buddha, e la società nella quale viviamo. What's everybody going for? Close the windows. Window. Shall we hop for a minute? Do you want to go and close your windows? Bisogna di chiudere le finestre. Just put pause.